Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, bentrovati, 16.33, Luca Tremolada al microfono, buongiorno Guido Romeo. Buongiorno, ciao. Oggi puntatone abbiamo qui in studio l'inventore del Walkman, Andrea Spavel, ma prima le news. Apple nella bufera per il suo iPad. Spernacchiata dalla stampa americana per l'assonanza con il pad, il pannolino per l'igiene intima femminile, la Apple ora potrebbe essere investita da una causa legale legata al nome del suo nuovo prodotto. La giapponese Fujitsu ieri ha rivendicato di aver utilizzato il marchio iPad dal 2002 e oggi il Financial Times sottolinea come il nome iPad sia stato registrato in Europa già nel 2000 da ST Microelectronics. Per Apple un film già visto. Al lancio dell'iPhone, una medesima disputa l'ha avuta con Cisco Systems, che possedeva i diritti per il nome. Le due società hanno poi trovato un accordo. Le scuole della Corea del Sud si preparano a dare il benvenuto al libro elettronico. A partire dal 2011, i tradizionali libri di scuola saranno affiancati da e-book e dizionari elettronici nelle scuole primarie e secondarie coreane. Ancora in tema di libri. Dopo le proteste ieri degli autori britannici, anche gli editori italiani si oppongono al nuovo accordo transattivo, Amended Settlement Agreement, presentato nel novembre scorso da Google, per chiudere la class action promossa dalle associazioni di autori ed editori americani per il servizio Book Search. Samsung Electronics sarà la prima azienda a commercializzare televisori a LED e LCD in 3D. Il colosso coreano ha iniziato proprio in questo mese la produzione di LED TV e LCD Full HD 3D nei formati da 40, 46 e 55 pollici da utilizzare con occhialini 3D attivi. Secondo le ricerche di mercato condotte dalla Display Search, il business delle TV 3D crescerà dai 902 milioni di dollari del 2008 ai 22 miliardi di dollari nel 2018. Con un incremento sensibile, anche misurato ad unità, passando dalle 200.000 unità del 2009 ai 64 milioni di prodotti venduti nel 2018. Quella che state ascoltando è la prima canzone che è stata ascoltata in mobilità e noi abbiamo qui, vero Guido, Andrea Spavel, che è l'inventore del Walkman, che un giorno di quanti anni fa? Stiamo parlando del 72. Nel 72, 72 provò ad ascoltare la musica camminando con il suo prodotto, il suo aggeggio. No, non è che provò, facciamogliela raccontare bene, perché insomma è una cosa un po' particolare. Fu una scelta, un posto anche strano, c'era un'idea estetica forte, quindi dove eravate esattamente quando avete iniziato? Eravamo a San Moritz in una passeggiata, ero con la mia ragazza, una passeggiata nel bosco, nevicava e ci sembrava di levitare, è diventato una specie di mondo delle fiabe questa cosa, perché io e forse altri non avevamo mai sentito musica di alta qualità, essendo in un ambiente esterno a scelta, un ambiente magico come quello, e sentendo la musica come un soundtrack, come si dice, no? Una colonna sonora. Una colonna sonora per la vita reale. Ecco, la due parole. Andrea Spavel è tedesco, ma brasiliano di adozione. La scheda di Guido Romeo vi racconterà quasi tutto di lui. Tedesco di nascita ma brasiliano di adozione, filosofo ed editore, Andrea Spavel è soprattutto inventore instancabile. Di madre artista e padre imprenditore, Pavel ha concepito un'eresia che è diventata quella che Enrico Ghezzi ha definito una vera mutazione antropologica e di cui Jacques Attali ha detto che è il primo oggetto nomadico del nostro tempo. All'inizio degli anni 70, quando tutti pensavano ai hi-fi, Pavel sviluppa la Stereo Belt, un impianto miniaturizzato per l'ascolto mobile che può essere agganciato alla cintura. È il primo prototipo di dispositivo audio portatile che ha ispirato il Walkman e, più recentemente, i player MP3 come l'iPod. È low-tech, ma l'idea estetica è raffinata. separare le percezioni visive dai suoni che naturalmente le accompagnerebbero e mettere invece la propria colonna sonora alla vita reale. Nel 1977, mentre è residente in Italia, deposita il brevetto di questa invenzione rivoluzionaria. Propone l'idea a Yamaha, Philips e Grundig, che però rifiutano di produrla. Chi mai vorrebbe andarsene in giro con delle cuffie in testa? Si sente rispondere più di una volta. Già, chi mai ha detto oggi fa sorridere, visto che insomma le cuffiette, diciamo che è la merce più distribuita, più diffusa che c'è per le strade. Anche se i telefonini adesso hanno le due cuffiette, certo, perché ci puoi ascoltare la musica, invece una volta c'era solo l'auricolare singolo, no? Ecco, quindi... ma allora come è andata? Cioè, perché l'idea? Perché negli anni 70, insomma, c'era il mito dell'hi-fi, c'era il mito della vera. Le casse grandi, sì, in casa. Sì, c'era una specie di ordine naturale in cui sembrava che la qualità dipendeva dalle dimensioni. Allora, diciamo, c'era l'impianto Hi-Fi, quanto più grande tanto migliore, per i bassi, per l'amplificatore, eccetera eccetera. Poi c'era l'impianto car stereo in macchina, c'era quello nella cuffia, c'erano i studi di registrazione e basta, c'erano quei scatoloni, boom boxes, con cui la gente va in giro, che sono sì stereo ma non più hi-fi. E quello era il mondo della musica. Il mondo della musica era questo, sostanzialmente. Esattamente, c'erano anche apparecchi tascabili, però erano radioline per sentire le notizie. Le partite. O registratori per fare un dettato, un'intervista. Allora, sembrava un assurdo che qualcuno prendesse l'apparecchio più scadente, più piccolo di questo ordine naturale e dicesse: questo ve lo trasformo in alta fedeltà. Per questo bisognava ridisegnarlo per la cuffia. Ora, la cuffia era un accessorio per l'ascolto privato e per il monitoraggio di una registrazione. E posso finire questo commento dicendo questo, che è abbastanza interessante. Cioè, tutti pensavamo a quell'epoca, incluso l'industria stessa, di sapere a cosa serve una cuffia, a cosa serve un mangianastro tascabile. Oggi sappiamo che la cuffia e l'auricolare al 99% serve per l'ascolto mobile, e a quell'epoca si pensava che serve per ascolto in privato e il monitoraggio e basta. Allora, questo concetto ha moltiplicato per 100 il mercato della cuffia, una cosa che la stessa industria che fa le cuffie non avrebbe mai sospettato. Ecco, però, esatto, non solo non l'avrebbe mai sospettato, ma non fu facile far passare per lei l'idea della musica in mobilità. Ci racconti bene che cosa è successo? Lei, insomma, ebbe questa intuizione della musica portatile, realizzò un apparecchio. Sì. E poi cosa successe? Cioè, prima ancora di brevettarlo e realizzarlo, ho cercato il rappresentante della Sony a una fiera di alta fedeltà e ho detto: io ho una maniera di magicamente far apparire un suono alta fedeltà ovunque vi trovate, senza scatole, impianti, eccetera. E questi mi hanno detto: ma come lo fa? Dico: non ve lo posso dire se non facciamo un contratto. Ma va mica in giro con degli altoparlanti sul erano lungimiranti spalle. Erano sì. Avevano capito, cioè, erano talmente fissati sugli altoparlanti che non riuscivano veramente a concepirlo. Io poi ho contattato la Grundig, la Philips, la Yamaha, eccetera, e si diceva la ITT, si diceva sì, ma questo marchingegno, insomma, ma cosa dobbiamo fare? Ma chi fa? Userà mai un marchingegno di questo tipo? Dobbiamo andare in giro con la cuffia, anche poi quando la Sony l'ha fatto, i stessi... però ci spieghi, sì, questo passaggio. Poi a un certo punto cosa succede? Lei fa il giro delle sette chiese, come si suol, esatto, dire. È quello che descriveva come un cono d'ombra, cioè una cosa che... un concetto che... relativamente semplice tecnologicamente, ma che nessuno vedeva, perché appunto, se ne davi, sì, la descrizione, dicevano: ah, ti metti gli altoparlanti sulle spalle, non ti metti un paio di cuffie in testa. Che... sì, non vedevano la possibilità, ma anche quando col brevetto depositato glielo spieghi, non la vedono ancora. Perché, come hanno detto tutti i direttori di marketing al presidente della Sony, quando poi la Sony ha deciso di farlo, era: ma costa troppo, non registra neanche. Ecco, no, ci spieghi questo passaggio qua. Lei che cosa fa a un certo punto? Decide di brevettare questa idea. La deposita, tra l'altro, mi diceva, nell'ufficio brevetti italiano a Milano. Sì, mi trovavo in Italia quell'epoca. In via, sì, Vincenzo Monti e tutto quanto. E poi qualche anno... Scusa, non ero lì, ma non importa. Non ero lì. Ero lì in passaggio con amici in Italia nel 77. Ma è stato brevettato in Italia o all'estero? Sì, perché mi trovavo qui in quei mesi e ho depositato il brevetto qua. E poi cosa succede? Un paio di anni dopo esce il Walkman, grande invenzione della Sony, grande innovazione che cambia e ha cambiato poi la storia della musica. A quel punto lei è andato a bussare alla porta della Sony dicendo: beh, signori. Sì, no, ho detto, insomma, se voi avete il prodotto, io ho il brevetto, forse possiamo lavorare insieme. Gli unici fino a quel punto che l'avevano capito era la Bang & Olufsen, troppo piccola per farlo, e la Brion Vega che si apprestava a farlo. Ecco, allora, visto che sta facendoci un excursus, Guido Romeo ha realizzato una scheda in cui racconta proprio tutta la storia del Walkman, non tutta perché altrimenti è troppo lunga, però insomma alle tappe. Il primo fu Walkman, ma c'erano anche Soundabout e Freestyle. Poi in casa Sony arrivarono Pressman, Watchman, Scoopman e perfino Discman. La storia del primo riproduttore audio portatile della casa giapponese è tanto controversa quanto è monumentale il suo successo. Nobutoshi Kihara, l'ingegnere della divisione audio, lo costruì a velocità record nel 1978 su indicazione dell'allora vicepresidente Akio Morita, ma non ne ricavò mai più di un grazie. Morita, il padre giapponese del Walkman, un giorno confessò di detestare il nome della creatura, di cui peraltro andava fierissimo e diventato sinonimo di musica in movimento. Ma le icone, una volta create, diventano immortali. 2 anni fa la casa giapponese ha riproposto il nome per la sua serie A800 digitale, dove A sta per All-in-One, Advanced and Attractive. Nova Lab 24. 16:46, Luca Tremolada. Poi insomma ci spiegava nell'interruzione Power che hanno trovato un accordo con Sony, che è andato tutto bene, ma la storia del Walkman se è travagliata. Tra l'altro, appunto, mi sono beccato subito una correzione. Pavel, che cos'è che non andava nella scheda? Perché la storia del Walkman e del presidente Morita, del rapporto insomma di come passò il Walkman in Sony, non è affatto una storia semplice. Insomma, ci sono forse una decina, se non una ventina, di storie messe in giro dalla Sony stessa, e questa che tu hai letto è ancora un'altra storia che sento per la prima volta. La Wikipedia, Sì, è sbagliatissimo, perché dobbiamo assumere che quello che gli impiegati della Sony giurano in tribunale sia la verità. E allora è un altro ingegnere che lo ha fatto secondo loro, perché è stato trasferito dal dipartimento tape recorder a quello business machine e ha pensato si potrebbe cambiare una business machine. Però, coincidenza, questo è successo entro 2 settimane della pubblicazione della domanda di brevetto, e non c'era nessuna caratteristica tecnica nuova in quell'apparecchio che non si ritrova già nel brevetto, e era tecnicamente fattibile da 4 a 5 anni già prima, c'erano tutti gli elementi. Tanto è che quando li hanno messi insieme l'hanno fatto in pochi giorni, e tanto è che la tecnologia era così matura che quando è stato messo sul mercato 10 mesi dopo è esploso e ha creato la curva più ripida, si dice così, di vendita nella storia del consumer electronics. Certo. Perciò era maturo, e se non l'ho fatto prima perché non hanno avuto l'idea, e se non hanno avuto l'idea è perché era una cosa inventiva, un po' originale, quello che loro naturalmente hanno negato in tribunale cercando di distruggere il brevetto. Ma infatti la parte più interessante, al di là della tecnologia con cui è stato realizzato, secondo me nella tua storia, nella vostra storia, è proprio l'idea estetica che sta dietro il brevetto. È questa che volevo che ci rispiegasse, perché l'idea dell'invenzione è un po' quella con la quale giochiamo sempre. Insomma, che cos'è che definisce un'invenzione e che definisce poi un brevetto come originale e quindi particolare? Allora, sono 3 o 4 punti, forse mi devi interrompere. Andiamo per ordine. Un'invenzione in quanto brevetto è una costruzione linguistica, è una definizione, non è un apparecchio, e la battaglia in tribunale va intorno a quella definizione. Se tu sbagli una parola e crei troppa vicinanza con quello che c'era prima, è una trappola, diventa una trappola a muoversi lì dentro. Puoi anche avere una cosa che vale 500 milioni di dollari, in quel momento si disfa in fumo, vale zero. Perciò invece l'apparecchio è un'altra cosa. Ecco, io però volevo interrompervi perché volevo capire un'altra cosa, cioè al di là di tutti i vari passaggi del brevetto, che immagino sia abbastanza una giungla, oggi con l'esperienza che ha, insomma, lei non è che è stato fermo, sta producendo nuove idee. Su che cosa sta lavorando e se le sta brevettando, cioè, perché poi si ritorna da capo. Sì, o un altro, sì, appena depositato l'anno scorso in 90 paesi, qualcosa che in modo analogo al Walkman, che ha rivoluzionato il campo audio con una specie di cross-fertilization, fertilizzazione incrociata, contaminazione incrociata. Sì, perché ha messo insieme due cose che non c'entravano assolutamente, la cuffia stereofonica e il mangianastro tascabile, tirando un coniglio dal cappello, cioè una funzione totalmente nuova e inaspettata, con un effetto sorpresa sconvolgente. Mi trovo in una situazione simile, non posso dare i dettagli ancora, però qualcosa. Siamo nel campo della telefonia, dove c'è una grande, è il prodotto simbolo della nostra epoca. Del resto il cellulare ha inghiottito. Quindi capire, no? Qualche cosa che ha a che fare con la ha lavorato, ha depositato un brevetto su un qualche cosa che sta dentro il telefono e ha a che fare con la musica. No, qualcosa che cambia. Aiutami, Guido, che ha a che fare col suono, se è bene, se ho capito bene. Ed è questa un po' l'idea centrale. No, cioè te lo dico io. Insomma, i telefoni sono sviluppati dinamicamente in tutte le direzioni. Oggi sono dei computer tascabili che contengono il telefonino, così come il telefonino contiene il Walkman, insomma diventa un tutt'uno. E in tutta questa dinamica, share experience e tutto intorno a te, tutte queste cose qua, alla fine questo scambio di esperienze è di files, no? di file. Di archivi, no? Però La funzione originaria e primordiale del cellulare, che è con la conversazione telefonica, è la stessa, era primordiale, perché si chiama ancora telefonino, il nome è questo. Fanno di tutto, tranne che poi le utilizziamo per tutto, tranne che per telefonare, però con un altro paio di maniche. Sì, perché è diventato un computer tascabile che è anche telefono, che è anche Walkman. Ma la funzione della conversazione telefonica è solo peggiorata nella qualità in questi anni e è più o meno la stessa che 80 anni fa. Allora questa nuova invenzione rivoluzionerà il campo del telefonino nell'aspetto della sua funzione primordiale, cioè la conversazione telefonica. Più in questo momento non vi posso dire. Lei l'ha detto, poi quando la presenta ci promette di ritornare qui e ce lo fa vedere. Ha detto di no. Volentieri. Ce lo fa sentire soprattutto. Ma, Guida, abbiamo un minuto. Io un minuto lo dedicherei alla musica brasiliana, che è l'altro grande capitolo del lavoro di Pavel. Se ci racconta due o tre cose, io l'ho ascoltata nel suo studio e questo... Perché oltre a inventore è anche produttore discografico, cos'è? Giusto, nel passato ho già editato un'enciclopedia della musica brasiliana, anche un'enciclopedia di filosofia, e in questi anni ho deciso di, come dire, recuperare l'ultimo grande maestro della origine più antica della musica brasiliana, che è la musica choro, che alla metà dell'Ottocento si è sviluppata dalla musica classica con elementi di musica nera, musica da ballo, 70 anni dopo ha portato al samba. Qua non c'è nessun brevetto. Non c'è nessun brevetto. Quindi... è una produzione in cui ho recuperato un vecchio musicista di 83 anni, uno dei più grandi flautisti che il mondo ha conosciuto, e abbiamo prodotto un DVD, una scatola di 4 DVD. Se domani grande multinazionale esce con un disco di questo flautista ottantenne, insomma ci si ritrova in tribunale. Se usano i filmati che ho prodotto, sì, se no no. Va bene, noi abbiamo esaurito il nostro tempo. Io ringrazio Guido Romeo, ringrazio Andrea Spavel. La trasmissione è finita. Noi ci sentiamo alle 16:30 di lunedì. Ciao.